1 marzo 2025, intervista ad Alberto Stracuzzi fatta ad Alberto Airoldi. Alberto, ti ricordi quando hai iniziato a partecipare al movimento della Pantera e perché? Sì e no contemporaneamente, nel senso che ricordo molto bene che cominciai ad avvicinarmi al movimento della Pantera quando a gennaio, se non ricordo male, a gennaio 1990 si svolse la prima grande assemblea in statale, nell'Aula Magna statale. Mi ricordo un'assemblea tumultuosa da un lato e affollatissima, la gente stava in piedi, si arrampicava sui termosifoni. L'Aula Magna statale è grande. E quindi eravamo veramente una marea. Il motivo per cui mi ero avvicinato era perché io ero, ai tempi ero, virgolette, una matricola, quindi ero un iscritto del primo anno, venivo da un'altra città che non è nota alla storia per aver fatto molto per il movimento di estrema sinistra in questo paese, che è Verona, anche se ha avuto addirittura un'organizzazione armata che si è costituita a Verona, e una famosa casa editrice di sinistra che era Bertani, la Bertani Editore, che pubblicava, insomma, libri dei Tupamaros, testi dei Tupamaros, testi dell'Armata Rossa, della Rote Armee Fraktion. Ma ricordo che in quel periodo c'erano tutta una serie di avvenimenti che, per quelli come me, che non avevano grandissima militanza politica pregressa, se non avevo partecipato al movimento dell'80, degli studenti dell'85, ero in seconda e terza liceo, e ero un movimento di studenti che anche in quel caso si organizzava contro una riforma studentesca del ministro dell'istruzione. Ai tempi il ministro dell'istruzione era anche il ministro dell'università, la famosa Falcucci democristiana. Quindi, a parte questa esperienza e come dire, qualche altra manifestazione, qualche altra partecipazione ai collettivi che nascevano e morivano nel giro di 2 o 3 settimane nella mia città, non avevo alcuna esperienza pregressa molto, molto strutturata. Sicuramente era un periodo di grande fermento, nel senso che nel giro di pochissimo tempo, il Novecento si è preso uno scossone fortissimo. Quello per cui poi Hobsbawm ha chiamato il Novecento il secolo breve, no? Perché sostanzialmente quando io mi diplomo nell'89, sì, appunto, muore Pertini, cade il muro di Berlino, cioè la caduta del muro di Berlino è una roba epocale che oggi si studia nei libri di storia, e perché probabilmente, come noi studiavamo nei libri di storia, la caduta del nazismo, l'arrivo dell'Unione Sovietica a Berlino e quindi la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma fu una roba che... Allora ci rendevamo conto che era un pezzo di storia, cioè tu stavi vivendo un momento storico di portata inimmaginabile, perché nessuno si immaginava che dall'oggi al domani quell'intero sistema si sarebbe sgretolato nella maniera poi addirittura materiale, cioè con gente che picconava il muro di Berlino e apriva i varchi, per cui tra Berlino Ovest e Berlino Est la gente fluiva liberamente con poliziotti dell'una e dell'altra parte che non facevano nulla. Si parlava della liberazione di Mandela, che sarebbe avvenuta di lì a pochissimi mesi, forse avvenne proprio durante l'occupazione, ma era noto che mancava ormai poco tempo perché, come dire, da un punto di vista giuridico il regime di sudafricano aveva già deciso di liberare Mandela. E quindi era una situazione dove tutte le persone con un minimo di consapevolezza e di sensibilità si sentivano di non poter stare con le mani in mano. Quindi il motivo per cui io mi avvicino poi fondamentalmente ai primi conati di lotta politica e scienze politiche, mi ricordo che frequentai una riunione di redazione di una rivista che si chiamava Sussurri e Grida, in cui c'erano alcuni compagni che poi fecero parte del nerbo degli occupanti, cioè del gruppo degli occupanti a scienze politiche. E quindi ricordo, come dire, non saprei dire la sequenza esatta degli eventi, ma ricordo che partecipai a questa grande assemblea in statale, seppi che si stava costituendo un gruppo che voleva indire un'assemblea di scienze politiche, quindi tornai a scienze politiche, che era la mia facoltà, e partecipai alle prime assemblee. Anche lì non ricordo esattamente la sequenza degli eventi, ricordo perfettamente l'assemblea che a un certo punto decise, votò l'occupazione, ed erano, ecco, assemblee nelle quali le componenti politiche erano le plurime e le più assolute, cioè, c'erano dentro i socialisti, c'erano dentro i liberali, c'erano dentro i socialdemocratici, le componenti giovanili di questi, della FIGC, quindi del Partito Comunista, di Democrazia Proletaria, una sequenza di cani sciolti impressionante, gente dei centri sociali che non diceva di essere dei centri sociali, veniva accusata poi sostanzialmente voi siete l'autonomia, ma anche questa definizione è sbagliata, perché noi avevamo l'autonomia dentro, ma autonomia e centri sociali anche a Milano non erano un concetto completamente sovrapposto. E ricordo la decisione di votare l'occupazione quasi dopo un'assemblea oceanica in cui alcuni gli oppositori si erano stancati di starci dentro, e fu deciso proprio in una forma, come dire, veramente iperleninista, di colpo di mano: adesso si vota l'occupazione, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Sapevamo che avremmo vinto, perché era chiaro che quelli che erano presenti lì erano i presenti là dentro avevano una maggioranza schiacciante a favore dell'occupazione. Si votò l'occupazione e ricordo che io feci una corsa insieme a due o tre altri compagni, perché sulla base di quello che avevamo imparato di altre facoltà che avevano occupato nel resto d'Italia, la prima cosa da fare era prendere la presidenza, dove tecnicamente di sotto c'era il solo fax, il famoso ritrovo manufatto tecnologico dell'epoca, ce n'era uno solo tendenzialmente in ogni facoltà, era presso la presidenza. Quindi corremmo al galoppo, perché sapevamo che il fax stava nell'ufficio della segretaria del preside, e arrivammo dicendo la facoltà è occupata, la segretaria che stava uscendo, se ne stava andando a casa, gli dicemmo non chiudere la porta perché abbiamo deciso di occupare la facoltà. Lei era un pochettino interdetta, ma diciamo che quattro giovani cristiani maschi che hanno sfondato la porta, l'hanno messa da parte, hanno aperto la porta e hanno preso il fax, e abbiamo cominciato a mandare in giro fax per numeri di telefono che circolavano in quei giorni, numeri di fax, perdoni, non di telefono, che circolavano in quei giorni, e che sapevamo essere i numeri di fax di altre facoltà occupate. Il primo, ovviamente, che abbiamo mandato fu quello alla facoltà di, credo fosse Lettere e Filosofia di Palermo, che era stata la prima ad occupare, scrivendo Scienze Politiche Milano ha occupato, e arrivò il fax dopo pochi secondi, si sentì questo rumorino che faceva il fax mentre stampava, con carta intestata della Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo che scriveva Scienze Politiche di Milano vi amiamo o ti amiamo, qualcosa di questo genere. Ecco, questo è il mio ricordo confuso, perché non era chiarissimo cosa stavamo combinando. Diciamo che feci parte di quei sassi che Ruscello improvvisamente trascinò perché si era gonfiato, mettiamola così, facendo una metafora maoista. Ti ricordi le motivazioni dell'occupazione? Le motivazioni erano una e tante. La prima era sicuramente la riforma Ruberti, di cui tutti discutevano e di cui in realtà poi nessuno sapeva molto, anche quelli che erano militanti più strutturati di me, fino a che questi simpatici ragazzi dell'Università di Palermo, che rivisti di recente in un documentario tutto erano fuorché estremisti di sinistra, bravi ragazzi degli anni fine anni 80, vestiti come fine anni 80, con la barba fatta, puliti, ma che facevano anche un discorso estremamente democratico, cioè dicevano se l'università è un luogo di sapere, di diffusione del sapere, non possiamo stabilire, non si può fare in modo che questo sapere sia nelle mani di qualcuno il cui interesse non è la diffusione del sapere, ma organizzarti le conoscenze per farti lavorare. Perché poi la riforma di Ruberti fondamentalmente portava questo, oltre a alcune delle cose che hai citato nella tua di intervista, stabiliva il principio in base al quale lo Stato non era più in grado di finanziare integralmente il sistema universitario, e quindi apriva giuridicamente le porte alla possibilità che le aziende investissero, fino addirittura a patrocinare corsi, fino addirittura a proporli, no? O a proporre delle cattedre. Cosa che poi si è realizzata pienamente, che era già stata realizzata in Europa, che era già stata realizzata in altri paesi, e quindi questa situazione spingeva questi bravi studenti democratici, poi come dire pluralisti, palermitani, a dire no, cioè non siamo d'accordo con questa situazione perché riteniamo invece che il sapere deve essere un sapere libero. Non erano neanche arrivati a dire, come facemmo noi, a una contestazione della maniera con cui veniva insegnata le materie che loro studiavano a Palermo. Loro semplicemente dicevano: non è possibile che questo sistema si metta nelle mani di aziende private che non hanno l'interesse che può avere lo studente di formarsi come cittadino e come persona consapevole, prima ancora che come lavoratore professionista. Oggi, questo senza anticipare le domande finali, oggi questo terreno è stato completamente sgomberato, cioè è assolutamente normale che tutti dicano si studia perché ti devi preparare per il mondo del lavoro, si studia perché devi essere funzionale, perché se non sei funzionale non avrai un lavoro, non avrai un salario, e quindi è assolutamente normale che fin dalle elementari si parli di fornirti nozioni e conoscenze che dovranno essere pratiche ed attuate, no? Di recente il professor Barbero è stato uno dei pochi che ha detto questa cosa, è questo che non sta né in cielo né in terra, perché quando si studia si deve studiare prima perché tu sia in grado di prendere delle decisioni, voglio quel lavoro piuttosto che un altro lavoro, devo accettare quelle condizioni piuttosto che ne voglio delle altre. Se non hai questa consapevolezza che ti è data la cultura, non ce l'hai. E la famosa battuta, stranamente, chi dice che bisogna imparare, avere le conoscenze per andare nel mondo del lavoro, sono frasi che dicono i padroni che poi mandano i figli a studiare cose che non sono necessariamente connesse al mondo del lavoro, mentre invece sono gli operai, i figli degli operai, che finivano ai tempi a fare gli istituti tecnici e a studiare materie che servivano per il lavoro. La licealizzazione che hai citato nella tua intervista era, come dire, la conseguenza, il subordine di questa logica di far entrare le aziende private in università, perché a questo punto se dovevi essere funzionale al loro lavoro, allora sì che te lo licealizzo con impara, fai i tuoi compitini, sei preparato o meno, e quindi stabiliamo quando sarai pronto a essere immesso nella macchina produttiva. Queste erano le motivazioni. In realtà c'erano migliaia d'altri. C'erano i collettivi studenteschi strutturati prima, che non vedevano l'ora, anziché riunirsi in sette poveri sfortunati, finalmente avere appunto assemblee oceaniche. Ci sono stati dei momenti in cui c'erano migliaia di persone che circolavano nelle occupazioni, proprio migliaia, assemblee di 500, 600, 700 persone era la cosa più normale di questa terra. Poi c'erano il movimento dei centri sociali, che aveva retto l'ondata di riflusso degli anni 80 e quindi vedeva nel movimento una grande occasione di rilancio. C'erano i cani sciolti come noi, che pensavano, come me quantomeno, che pensavano finalmente faccio parte, no? Anziché guardare la storia comincio a farne parte. C'era la FIGC, c'era la Democrazia Proletaria, tanti hanno pensato si ricomincia, no? Cioè il ciclo di lotte chiusosi nel 1980, che per un decennio, a parte quello spruzzino dell'85, ma che fu assolutamente episodico come movimento studentesco, c'è state un po' di iniziative di altri collettivi, ma niente di nazionale, si pensava, e nasce un nuovo ciclo di lotte. Tant'è vero che in queste occupazioni si parlava in continuazione del 68 e del 77, e io, ecco, questa è una cosa che continuo a ripetere ogni volta che qualcuno me lo chiede, a noi sembrano epocalmente distanti da noi. Soprattutto il 68, che dopo tutto stava solo a 22 anni, oggi parliamo di un evento che stava a 35 anni fa, e noi parlavamo del 68 come se fosse un mondo che non ci riguardava, perché riguardava forse i nostri genitori, o meglio non ci riguardava perché non avevamo potuto viverlo, ma ci riguardava perché ne sentivamo una forte legame, come dire, sentivamo essere figli di quel percorso, almeno di alcuni di quei percorsi, che ce ne furono tanti. E il 77 era una cosa che avevano fatto i nostri fratelli maggiori, ma anche lì una cosa del passato che finalmente noi riuscivamo a rilanciare, una situazione che noi riuscivamo a rilanciare. Il fatto che poi non si fosse aperto un grandissimo ciclo di lotte, e che poi dopo tutto anche il 77 fu la chiusura di un ciclo di lotte, o fu una delle tante episodi di chiusura di un ciclo di lotte, a differenza del 68, lo capimmo dopo. Ecco, noi eravamo, come hai detto nella tua intervista, tutti convinti adesso, cioè, il mondo cambia e finalmente c'è una nuova massa di lottatori sociali, come dicono in America Latina, che si mette a disposizione della trasformazione. Ecco, tu ti ricordi dei momenti particolari, anche dei passaggi politici interni all'occupazione? Occupazione che durò da gennaio a marzo, e nella sua fase completa, ricordiamolo, poche settimane, ecco, perché ci mettemmo un po' a occupare tutta l'università, ci fu il blocco della didattica, che io mi sono dimenticato di citare, e poi lo sblocco. A noi sembrava di aver vissuto per un periodo molto lungo, perché era molto intenso, però in realtà non fu così lungo. Un paio di mesi, tra una cosa e l'altra. Ci furono sicuramente dei passaggi politici. Ecco, tu di tutto questo ricordi qualcosa di significativo? Io ricordo che nei primissimi giorni successivi all'occupazione di scienze politiche la cesura definitiva con altre forze politiche non era ancora esplosa, nel senso che alle assemblee successive l'occupazione tornarono a presentarsi i socialisti, la FIGC, eccetera, eccetera, i giovani liberali, per cui quell'episodio che citi con Dodo Torchia era, come dire, immediatamente successivo al fatto che questi per un paio di settimane partecipano alle assemblee, sempre con posizioni ovviamente di ipercritica e iperconfutazione, sono assolutamente minoritari, e questo ci galvanizzava moltissimo, perché sembrava la dimostrazione palmare di quello che dicevamo sempre, cioè questi sono emanazioni di partiti, non hanno nessun consenso tra gli studenti. Ecco, questo tema, poi ci ritornerò dopo, del consenso degli studenti era fortissimo fra di noi, no? Cioè le assemblee avevano deciso a maggioranza, e quindi non c'è dibattito, erano democratiche. Questo veniva addirittura dal fraseggio che arrivava da Palermo, cioè l'occupazione era un'occupazione democratica, perché dava nelle mani degli studenti una presa di decisione contro i partiti che erano minoritari e contro il corpo docente, che era comunque legato a doppio filo alla politica, ai partiti e al governo, che comunque era una componente minoritaria, perché migliaia sono gli studenti, poche centinaia sono i docenti, no? E quindi concettualmente noi ci sentivamo in grado di dire voi non avete mai contato niente, le elezioni che vi votano, in cui vi votano, sei in consiglio, in senato accademico, avete preso 60 voti, qua l'occupazione l'ha votata in 300, cioè, abbiamo vinto noi concettualmente. Quindi ricordo questo, che a un certo punto loro se ne vanno, è uno dei momenti anche abbastanza tesi. Avevano tentato quello che noi chiamavamo il camellaggio, no? Di portare dentro degli studenti da loro, come dire, invitati, per far votare una mozione di sgombero alla facoltà. E mi ricordo che gli andò male, anche perché non avremmo avuto alcuna intenzione di... Eravamo talmente democratici che anche se avessimo perso avremmo fatto come Lenin, ci saremmo comunque tenuti la facoltà. Ma comunque persero anche quelle elezioni, a quel punto se ne andarono, ricordo anche con alcune affermazioni piuttosto disgustose. C'era una, me la ricordo ancora, ricordo il nome, ma si chiamava Beonio Brocchieri, era parente del più famoso figlia, e tristemente noto Beonio Brocchieri, che diceva che era andata a dire in giro che erano state trovate delle siringhe sporche di sangue nei sotterranei di Scienza Politica, cosa falsa, non c'era stata trovata nessuna siringa. E lì, ecco, una cosa che è interessante, almeno per come l'ho vissuto io, la prima prova tangibile che alcuni fanno politica citando fatti falsi, no? Cioè, si fa politica in due maniere: dando un'interpretazione al mondo, ma ammettendo che i fatti sono fatti. Cioè, per dire, l'Holodomor ucraino, di cui tutti si riempiono la bocca oggi, è un dato di fatto. Il fatto che alcuni siano stati fucilati dopo la presa del potere da parte dei partigiani jugoslavi, alcuni italiani sono stati fucilati e forse, chi lo sa, un paio di cadaveri buttati anche, ma per praticità nelle foibe, è un dato di fatto, è l'interpretazione di questi fatti che discrimina da che parte stai, poi sostanzialmente. Ecco, lì in quell'occasione vidi proprio, cioè, falsità assolute, quando io stavo nella commissione stampa, perché ero di quelli che stava al fax, ero di quelli che faceva la rassegna stampa al mattino. Uno dei miei compiti era ritagliare tutti gli articoli che riguardavano il movimento, appiccicarli su un tazzebao che poi veniva appeso in facoltà, e ricordo di resoconti giornalistici, cioè affermazioni di questi cialtroni, dei socialisti, dei liberali, eccetera, di fatti in cui ero stato io. E quindi, cioè, c'è un problema di... La memoria era labile, la memoria è labile adesso, dopo 35 anni, non ricordo con precisione se un fatto è avvenuto prima o dopo un altro, ma ai tempi sapevo perfettamente che non c'era nessuna siringa insanguinata, che Dodo Torchia nessuno gli aveva messo le mani in faccia, che venne Bobo Craxi a rompere i coglioni a Scienze Politiche chiamandoci nipotini di Stalin, e nessuno gli aveva fatto male, no? E sui giornali sembrava, cavoli, che fossimo le Brigate Rosse e che avevamo le pistole, no? Ricordo che a Roma avevano invitato a parlare un ex militante della lotta armata, adesso non mi ricordo neanche chi era, che si era fatto la sua galera, era uscito, quindi anche da un punto di vista borghese e democratico borghese era autorizzato a parlare in pubblico, perché, cioè, uno esce di galera, ha scontato la sua pena, se non ha la pena accessoria di non parlare in pubblico, può parlare in pubblico, pure il diritto borghese lo consente. E venne fuori un scompaginio sui giornali che sembrava dire che eravamo guidati da brigatisti e nasceva il nuovo terrorismo. Certo, dissociatevi il movimento si deve dissociare, come adesso, insomma. E questo veniva fatto proprio anche da alcuni che erano all'interno del movimento. Cioè, alcuni dissero: eh no, questa cosa è un filo, è una riga rossa che non si può passare. Ecco, devo dire che ce ne sono state tante di righe rosse che alcuni dicevano non si possono passare, che passammo serenamente il fatto, appunto, che quando il preside minacciò di bloccare la didattica e bloccò la didattica, tutti dicevano: vabbè, ma questo ci mette in contrasto con gli studenti che vogliono partecipare agli esami, vogliono partecipare alle lezioni, fare gli esami, proseguire la loro carriera universitaria, laureare, stanno pagando per questo, no? Stanno studiando per questo. Ci fu un dibattito, che mi ricordo io, estremamente breve, che disse: ce ne frega niente, in qualunque momento di lotta c'è qualcuno che ne paga un prezzo, stiamo pagando un prezzo pure noi, anche noi non subiamo le lezioni e non possiamo studiare. Mi ricordo il dibattito esterni-interni, no? È legittimo che persone che non sono iscritte alla facoltà di scienze politiche all'università potessero militare all'interno delle occupazioni? Anche questo durò lo spazio di un, penso, pomeriggio, perché c'erano alcuni compagni che nei centri sociali o dei partiti che non erano iscritti a scienze politiche, ma erano lì per sostenere la loro occupazione. Per cui, come dire, ricordo dei conflitti di carattere politico che hanno attraversato anche il movimento in alcuni casi. Perché ho detto, tutti questi eventi sono durati lo spazio di un pomeriggio, sì, ma hanno anche voluto dire che in alcuni casi alcuni si allontanavano, perché dicevano: allora non siete più democratici, no, allora non siamo solo studenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordo una grande manifestazione a Milano, con tutte le facoltà di Milano, con il loro striscione che scesero in piazza. Queste sono le cose che ricordo particolarmente dei movimenti politici, carsici all'interno dell'occupazione. Ricordo che eravamo incredibilmente uniti quando c'era un attacco esterno, il caso di Bobo Craxi, che ci aveva chiamato nipotini di Stalin, forse, se non ricordo male, dopo il caso di Dottorchia, il caso della Beoni Broccheri, che ci accusava di essere tossicodipendenti, spacciare eroina, altri che dicevano di aver visto delle armi, cioè roba di... Il massimo che c'erano gli accendini e i cilum per fumarsi l'hashish, cioè questo è il massimo di violazione della legge che stavamo facendo in quel momento. Però ecco, molto compatti quando c'era un attacco dall'esterno, c'è stato un grande dibattito, ricordo grandi dibattiti su questioni che oggi, a più di 50 anni, direi erano veramente esiziali, no? Cioè, anche quello che dicevi tu, no? La commissione sì, le commissioni no, siamo andati avanti un po' a discutere di queste cose, quali documenti dobbiamo far vedere, mandiamo dei delegati, non mandiamo dei delegati, arrivano i giornalisti, ci parliamo con i giornalisti o non ci parliamo, e visto che ci parliamo, chi ci facciamo parlare, perché naturalmente a quel punto tu stavi dando un minimo di potere a qualcuno che faceva da portavoce, e devo dire la verità, negli anni successivi tutti quelli che contestavano i portavoce hanno fatto poi i portavoce, e alcuni di questi, alcuni li conosciamo personalmente, si sono poi serenamente candidati alle elezioni politiche, sono entrati nei parlamenti, sono entrati nei consigli, hanno fatto i consulenti di sindaci e ministri. Ecco, questa è una cosa che ricordo molto. I più apparentemente radicali, e che quindi tutto deve essere discusso in assemblea, massima orizzontalità, nessuna delega, guai a chi, alcuni di questi poi non ebbero nessun problema nel fare un gigantesco salto a 180 gradi, tutta la gente dice sempre i salti a 360 gradi, vuol dire tornare, certo, al punto di partenza, erano salti a 180 gradi, i feroci accusatori del, come dire, del lavoro militante, del lavoro strutturato in commissioni o del fatto che ogni tanto dovevamo nominare qualcuno a fare qualcosa, diventarono poi i portavoce, poi dei deputati, eccetera, eccetera. Che bilancio fai del movimento? Allora, io, come te, probabilmente come tutti noi che l'abbiamo attraversato, è un bilancio che umanamente, personalmente, è un bilancio meraviglioso. Un po' perché quando hai 20 anni fai le cose che sono belle. Sono belle perché c'hai 20 anni, adesso, al di là di tutto. In più perché mi ha fatto trovare una collocazione politica che cercavo da anni e non trovavo, perché un po' nel contesto in cui qui stavo io non si riusciva a trovare, un po' non volevo entrare nel PC, non volevo entrare in Democrazia Proletaria, non mi ci vedevo neanche lì, e tutto ciò che era già strutturato mi sembrava non in grado, no, di interpretare dei tempi che stavano cambiando con estrema velocità. Nel 90 ci furono i mondiali. Sembra una scemenza, ma la prima feroce critica, o meglio, la prima Francia Critica a cui partecipai io a un modello di sviluppo della città di Milano o di altre città nacque anche come contestazione ai mondiali, perché queste opere costruite per far arricchire solo alcuni, ricordo la metropolitana 3 che venne aperta per 5 fermate tra Duomo e Centrale, quindi perfettamente irrilevante dal punto di vista dell'operazione dei mondiali, ma doveva essere un esempio bandiera di quello che si faceva, e che era costata la morte di alcuni operai per incidenti sul lavoro. Ai tempi morire sul lavoro era frequentissimo, più frequente di adesso, che è frequentissimo, ne muoiono 3 al giorno, ai tempi era ancora più frequente. Ricordo scontri pesanti, ricordo manifestazioni con scontri fisici con carabinieri e polizia molto gravi, per cui tutti avevamo l'idea che c'era un fermento e una trasformazione a cui tutti volevamo partecipare. Per cui su questo il mio bilancio è positivissimo. Sotto il profilo delle esperienze successive, invece, nel corso degli anni sono diventato sempre più severo, nel senso che il movimento non è riuscito ad assaldarsi ad altre esperienze esterne come fece il 68, perché non c'erano, e che non voleva il movimento, cioè cercò dappertutto sponda o interlocuzione con chiunque. Avevamo sì i Cobas dell'Alfa, c'era il gruppo di operai contro, che però non erano operai, erano militanti politici che lavoravano in fabbrica, perché anche questa mistificazione che a volte ci siamo raccontati, no? Io ho partecipato a picchetti all'Alfa Romeo, no? Ma noi non stavamo lavorando con gli operai, forse era il 69, noi lavoravamo con militanti politici che erano nelle fabbriche, perfettamente legittimo, però dire, avevano meno seguito tra gli operai di quanto ne avessimo noi tra gli studenti, poi concettualmente. Ricordo la manifestazione, ricordo alcuni momenti di questo tipo, ricordo l'assemblea di Firenze in cui mandammo degli osservatori e ci fu chiaro che l'egemonia di quell'assemblea a Firenze era stata presa da coloro che invece volevano chiudere il movimento. E infatti per questo si chiude il movimento, mentre Scienze Politiche regge ancora. Le altre conseguenze che io trovo, invece, il bilancio che faccio, che non è un bilancio positivo, è che avendo il movimento si chiude facendo vincere tutte quelle componenti che in realtà erano a Scienze Politiche, erano state azzerate, sostanzialmente azzerate. Noi non avevamo soggetti di questo, c'erano le altre città, invece c'erano a Firenze, c'erano a Palermo, c'erano anche a Roma, dove Roma c'era un ruolo dell'autonomia molto forte, però anche lì c'era una presenza, a Roma c'era una presenza storica del governo e del Parlamento, quindi c'era il PC. Ha portato 3 fattori che secondo me sono stati devastanti. Il primo, questa logica della democrazia che si costruisce sul base del fatto che io voto. Uno potrebbe dire, e cosa, come funziona la democrazia se non col voto? Non è vero, la democrazia è parlamentare, funziona col voto, cioè tu ogni tanto sei chiamato a dire sono d'accordo, non sono d'accordo con una posizione piuttosto con l'altra, ok? E è irrilevante cosa tu abbia fatto prima e cosa farai dopo. Tu vieni riunito in un posto, fai un'assemblea, voti e te ne vai. Il bello del movimento era stato che inizialmente non era così, cioè quelli che votavano militavano anche, presidiavano la facoltà, la pulivano, facevano l'organizzazione dei panini perché bisognava mangiare, cioè tutte queste cose qua. Ecco, vincono quelli che si vota una volta al mese, una volta ogni 3 anni e poi si va a casa, perché altri hanno il compito di fare quel mestiere. Quindi questo è stato il primo problema. Il secondo problema è stato la costruzione di movimenti politici, cosa che il 68 ha prodotto tantissimi movimenti politici, tra i più forti, tra i più, alcuni addirittura armati. Il movimento della Pantera ha poi prodotto, non direttamente, ma per gemmazione, movimenti politici che si sono richiamati alla democrazia, e alla democrazia quello per bene, no? Noi siamo la società civile, mi ricordo c'era questo grande dibattito sulla società civile, che era contrario ai politici di professione. La politica è professione, perché la politica è conoscenza delle cose, è capacità di intervenire, è saper misurare i rapporti di forza, non è una cosa che ci si può inventare. Cioè, tutti abbiamo cominciato a fare politica in maniera artigiana, ma diventando sempre più competenti e più capaci. Invece c'era questa idea, non c'è bisogno di sapere, c'è bisogno di partecipare. È una delle frasi, secondo me, più deboli di Gaber, è questo discorso che è partecipazione, sì, ma non basta esserci, no, per fare politica. E quindi si sono generati l'onda, il popolo viola, Per assurdo, per me il Movimento 5 Stelle non è che sia figlio del 90, perché comunque ci sono passato tanto tempo, ma è figlio di quella corrente di pensiero, no? Uno vale uno, e non è vero, uno non può valere uno, perché quando tu obbedisci a un'ideologia dominante non sei uno, sei la massa indistinta che segue l'ideologia dominante. Quindi in base a questo principio Lenin era un dittatore, perché a un certo punto fa saltare le elezioni, perché sennò tutto era paralizzato. E quindi secondo me il bilancio del Movimento La Pantera è devastante da questo punto di vista, perché ha generato forze politiche effimere, da un lato, sono tutte scomparse, 5 Stelle durerà poco, ma quindi finirà anche quello. E il terzo fattore che secondo me è stato, segna la sconfitta del Movimento La Pantera, è che dopo tutto, e questo forse è un errore che abbiamo commesso tutti, siccome pensavamo che ci fossero temi più grandi o che fosse l'occasione per rilanciare un ciclo di lotte che non aveva solo a che fare con l'università, un pochettino abbiamo tralasciato dei temi che sembravano sindacalismo studentesco e che oggi sono lacrime e sangue. Cioè, se oggi la struttura dell'università e dell'istruzione è fatta in questa maniera, è perché quel movimento ha perso, perché l'unica forma di opposizione a quel progetto è crollata. E quindi, come dire, sembra un fatto molto nella macro politica del mondo, negli scontri tra nazioni o tra imperialismi, è una cosa assolutamente, sembra assolutamente irrilevante, ma che oggi sia assolutamente normale che uno studente fin dalle elementari gli si insegni l'inglese, perché dobbiamo tutti sapere l'inglese, perché sennò senza l'inglese non lavori, e non perché così capisce l'idea, la mentalità e la cultura di un altro popolo, secondo me è figlio del fatto che quell'unico baluardo si è squagliato e quei pochi che hanno mantenuto la loro militanza, che comunque ci sono stati, hanno tralasciato completamente quel tema. Tu poi hai fatto parte del CPU. Sì, ho fatto parte del CPU. Per quanti anni? Io ho fatto parte del CPU, anch'io fino alla laurea, che è avvenuta un po' dopo di te, perché io sono un po' pelin più giovane. Io mi sono laureato nel marzo del 96 e quindi... marzo del 96, sì, nel marzo del 96, mi sono laureato nel marzo del 96 e lì ho sostanzialmente poi smesso di far politica nel CPU perché ritenevo che il collettivo politico universitario non potesse avere dei non universitari che ne facevano parte, dopodiché ero un compagno che poteva, come dire, essere... utilizzato, no? Mettersi a disposizione del collettivo politico universitario. Poi, come dire, costituimmo un'altra mini organizzazione che non durò moltissimo, ma che aveva un'altra natura, non era una natura di carattere universitario, ma era una natura più militante, no? Che non si riuniva in università, eccetera, eccetera. Però ecco, fino a quel periodo lì. E ti ricordi delle iniziative particolari del CPU? Una marea. La volta che inchiodammo le porte dei docenti durante la lotta del salto d'appello, che si chiamava lotta al sessionamento, perché non solo facevano saltare l'appello, facevano saltare la sessione, se non ricordo male, che volevano tornare a fare gli appelli non mensili ma sessionati, quindi ne hai due in primavera, due d'estate e due invernali, quindi ne avrebbero ridotto il numero, ma se tu venivi bocciato o rifiutavi un voto saltavi la sessione. Quindi se tu in primavera venivi bocciato, fino all'autunno non potevi più fare niente, quindi te la sognavi di poter recuperare quell'esame. In quell'occasione inchiodammo le porte di alcuni docenti di sociologia, che erano fra quelli che sostenevano l'operazione, anche lì in una forma di efficienza. Alcuni di questi docenti vennero a parlare con noi dicendo: ma guardate, ma questo si fa per evitare che persone che non hanno studiato e che non hanno voglia di studiare vengano a occupare gli spazi che voi studenti che avete studiato, io ero uno studente tendenzialmente che andava agli esami, tendenzialmente li superava, e quindi vi danneggiano voi. Cioè, il racconto che ci veniva narrato era: lo facciamo perché gli studenti bravi, quelli che studiano, non abbiano la palla al piede di coloro che invece non studiano e quindi disturbano, occupano le aule, allungano la durata dell'esame, perché ci sono una marea di studenti che si fanno interrogare e poi si fanno bocciare perché non sono competenti. E così rallentano, sono loro che rallentano il tuo arrivo alla laurea. Ecco, questa cosa è pienamente inserita nella narrazione dell'università e deve essere efficiente. Non deve costruire cultura, deve essere efficiente. Quindi se è poco efficiente studiare un fenomeno storico che non servirà a nessuno, non te lo fanno più studiare, no? In base alla logica dell'efficienza si può fare vedere tutto. Ci fu quello, ci fu la lotta contro la prima aggressione all'Iraq che ci vide protagonisti, una manifestazione che penso che per dimensioni se ne siano viste poche, se ne siano viste poche a Milano, che la polizia non voleva far entrare in Piazza Novelli, sede dell'Aeronautica Militare, e che disse la polizia: vabbè, come volete, adesso noi entriamo in Piazza Novelli, potete, avete due scelte, o vi spostate o vi spaziamo via. E in quel caso la polizia arretrò, perché una manifestazione di migliaia e migliaia di studenti universitari, medi, ma poi non c'erano soltanto studenti, decise che si passò sotto la sede dell'aeronautica insultando peraltro due piloti dell'aeronautica che erano appena caduti in prigionieri delle truppe di Saddam Hussein, Bellini e Cocciolone, gli unici due. Fu famoso, cioè uno stormo di tornado di cui, mi pare, se non ricordo male, 10 tornado, 9 non riuscirono a fare rifornimento in volo, l'unico che era riuscito a fare rifornimento in volo venne abbattuto. La dimostrazione, come sempre, che l'Italia è militarmente cos'era, un vitello coi piedi di balsa, no? Diciamo le strade tese, quindi della gente che si copriva prima di ridicolo che di dignità, e quindi probabilmente l'Italia potrebbe evitare, no, di fare il rodomonte bellico. Quello fu un episodio importantissimo, ci furono gli scontri a Milano 90 con la polizia che caricò dentro le metropolitane, ci fu la partecipazione alla grande manifestazione del 94 perché Leon Cavallo era stato plurimamente sgomberato e sotto attacco, manifestazione che vide ancora una volta, forse l'ultima grande manifestazione violenta a Milano, dove la polizia non resse l'urto di migliaia di persone che avevano deciso che non ci si fa mettere i piedi in testa, e praticamente da piazza Turati percorse con estrema velocità fino a Greco per arrivare al Leoncavallo, rifugiarsi dentro il Leoncavallo, e fu una delle poche situazioni veramente molto complesse dal punto di vista militare, perché non solo avevi spazzato via polizia e carabinieri, ma poi richiusi dentro il Leoncavallo c'erano gli elicotteri che ci passavano sopra, una roba, ecco, che non si vedeva, forse si vedeva nell'Irlanda del Nord, roba di questo genere, con la polizia che decise all'ultimo momento di non entrare quando stavano, come dire, avevano già mandato uno di quei mezzi blindati che cercava di sfondare il cancello Leoncavallo per entrare. Per cui, come dire, il collettivo politico universitario era presente in quasi tutte le situazioni di movimento milanese, sia quello dove girava intorno al movimento dei centri sociali che in altri movimenti. Mi ricordo azioni di solidarietà internazionalista, venne a parlare un compagno cileno, vennero a parlare compagni colombiani, vennero a parlare compagni turchi, era noto un compagno turco del Sol, compagni curdi, tantissime furono le iniziative che il collettivo politico universitario teneva in piedi. Una di queste, dal mio punto di vista, una delle più interessanti, perché almeno ha lasciato una traccia, perché anche questo è il grande tema, stiamo facendo questa intervista all'interno del luogo fisico dell'archivio Primo Moroni, dove c'è il fondo Scienze Politiche. Ecco, il 68 e il 77 hanno prodotto una quantità industriale di materiale scritto, libri, documenti, case editrici che si sono costituite in quell'epoca storica, perché quelli erano i mezzi con cui si comunicava. Noi facciamo già parte di un'epoca storica in cui si sta rarefacendo e dematerializzando la comunicazione. È vero che un'altra intervista dice che comunicavamo tantissimo, tazzebato da tutte le parti, volantini da tutte le parti, ma è roba effimera e poi si perde e finisce buttata. Il movimento della Pantera, il collettivo politico universitario, le esperienze politiche che sono sorte dopo il movimento non avevano la forza di mettere in piedi case editrici, qualcuno l'ha fatto, ma erano tutte le correnti, diciamo, no? Le correnti democratico-borghesi che poi avevano partecipato al movimento. Il collettivo fa una rivista stampata, e quindi questa è una cosa che secondo me è significativa, dei pochi vanti che dobbiamo portarci, e questa abbiamo fatto. E questa rivista partecipava al dibattito dentro la facoltà, intervistammo professori su temi specifici della loro materia o qual era l'impatto sociale della loro materia, poi contestando le loro parole, perché era un dialogo di conflitto, non era un dialogo in amicizia, era un dialogo di conflitto che tenevamo con loro. Facevamo la controguida, che era una guida alternativa a quella che davano agli studenti, dove c'era sostanzialmente scritto: il corso di storia contemporanea lo tiene il professor Tal dei Tali, per coloro che hanno il cognome della lettera M e Z, questi sono i libri, questi sono obbligatori, tra questi invece questi sono facoltativi, dovete sceglierne però due tra questa lista. Ecco, noi facevamo una guida addirittura che consigliava libri alternativi, consigliava agli studenti di studiare di più, non di studiare di meno. Ecco, questa è una cosa che io non ho più visto successivamente. Noi non dicevamo agli studenti non prendete quei libri, diciamo, leggeteli con spirito critico, e questi altri libri, questi altri testi vi possono aiutare ad avere questo spirito critico. E se resta una traccia scritta di questo dibattito, è nella rivista Il Buio, che non si occupava solo di università, ma si è occupato di America Latina, si è occupato di lotta armata, si è occupato di Palestina, si è occupata di lotta alla mafia. In quel periodo in cui il collettivo agiva vennero uccisi Falcone e Borsellino, fummo tra i pochi a dire che dopo tutto, per quanto fossero magistrati in buona fede, che lottavano contro la mafia, a loro volta erano il prodotto dello stesso cultura che produceva da un lato la mafia, da quell'altro dall'altro lo Stato, da quell'altro l'antistato della mafia, e che quindi non era così semplice, no, il racconto: ci sono i mafiosi cattivi e ci sono i magistrati buoni che poi sono morti saltati in aria. Ecco, questa rivista è andata avanti un bel po' anche dopo che ho lasciato il collettivo per motivi anagrafici. Poi è diventata, ahimè, un sito internet, e questo è stato un peccato. Dal mio punto di vista è stato un peccato, perché appunto oggi, se resta un minimo di testimonianza di quell'epoca, è nei fascicoli scritti della rivista Il Buio che siamo riusciti a recuperare tutti, abbiamo recuperati tutti e messi nell'archivio Scienze Politiche. Ecco, per concludere, un po' l'hai già fatto, però ecco, un bilancio politico dell'esperienza del CPU. Allora, il bilancio politico dell'esperienza del CPU è, ancora una volta, estremamente positiva sotto il profilo personale. Anche se sono stati momenti duri, cioè ci sono stati momenti di coepurazione, perché è una parola grossa, qualcuno si vantava di questa parola che invece è una parola orrenda, ma ci sono state delle spaccature, per cui pian pianino il collettivo, che inizialmente era veramente pletorico, quando, po' prima di chiamarsi collettivo politico universitario, e si scelse di chiamarsi collettivo politico universitario perché c'era l'assonanza col collettivo politico metropolitano, che fu una delle esperienze che poi diedero vita alle Brigate Rosse, quindi non era così banale la motivazione per cui avevamo dato quel nome. Questo però non era colto, credo, da tutti. No, assolutamente. Nella testa di chi propose il nome. Era nella testa di chi propose il nome, ci fu anche qualcuno che ci fece un ragionamento sopra, ma per molti era legittimo, collettivo, politico, universitario. Però, al netto di questo aspetto etimologico, in realtà appunto c'erano diverse forze all'interno, che alcuni si semplificarono per motivi anagrafici, non so, alcuni si laureavano quindi andavano via prima, ma a un certo punto diventarono, ci furono dei momenti di grande conflitto. Io ricordo uno di questi eventi che fu anche doloroso da un punto di vista umano. Si era aperto tutto un grandissimo dibattito all'interno del movimento dei centri sociali, che dal mio punto di vista è sempre stato un movimento riformista, perché nessuno mi toglie dalla testa, non l'autonomia, per questo dico che non c'è sovrapposizione perfetta tra autonomia e centri sociali. I centri sociali sono il residuo di una parte del movimento dell'autonomia. E i centri sociali, per loro definizione, campano negoziando la loro esistenza. Lo dico con l'affetto anche nei confronti di Conchetta, che ospita l'archivio Primo Moroni. E tu non puoi essere un rivoluzionario se devi negoziare le tue condizioni elementari di esistenza. Non lo può fare l'operaio quando fa il sindacalista, non lo può fare il centro sociale, che deve, in alcuni casi, magari facendo la voce grossa, dire: io qua sono e qua resto, no? E quindi si aprì un grande dibattito, anche teorico, che lanciò peraltro Primo Moroni, sui temi del come aprire un'interlocuzione con un mondo che stava cambiando. La base di quel ragionamento, c'è anche un libro che io avevo, ho prestato, e che non farò più l'atto di prestare i libri perché poi non mi ritornano a casa, che raccoglie questo dibattito, e la logica che ci stava dentro era: il ciclo di lotte non è ripartito, la rivoluzione la fai stando fuori dal sistema o stando dentro il sistema. Un discorso perfettamente privo di senso. Non puoi che stare dentro il sistema, non esiste niente fuori dal sistema, no? Quelli che avevano teorizzato le zone temporaneamente autonome erano follie che non stavano in piedi, ma neanche logicamente. Leggevi due pagine e ti rendevi conto che tra pagina 1 e pagina 2 c'erano delle contraddizioni. Ma al netto di questo, se tu cominci a dire no, se devi stare dentro il sistema inizi a starci negozialmente, no? Perché devi rivendicare il fatto che le situazioni di movimento dal centro sociale ai collettivi sono produttori di cultura, produttori di servizi, e questi produttori di cultura e di servizi devono essere riconosciuti dalla controparte. Se fai questo tipo di ragionamento, fai un ragionamento di accordo, con appunto una controparte che è una controparte, non è un nemico politico. Per cui mi ricordo che a strascico, cioè, o meglio, a caduta di quell'episodio lì, avemmo, come dire, fuoriuscite dal collettivo, anche scontri di carattere personale che furono gestiti anche male da tutti noi, anche cattivi, nel senso, facendo capire ad alcuni compagni non c'è più spazio per te qua dentro, forse è il caso che tu ti togli dai coglioni. E quello, ecco, non sono stati episodi che mi hanno reso contento, perché col senno di poi abbiamo gestito male un dibattito che poteva essere gestito in maniera più intelligente. Per cui sicuramente un bilancio positivissimo sul piano personale e sul piano che è fatto, comunque abbiamo tenuto in piedi un percorso e un ragionamento che altri non hanno tenuto in piedi, e che è stato possibile perché a Milano il collettivo politico universitario, come hai citato nella tua intervista, ha riconosciuto una forza significativa della città, cioè quelli di scienze politiche, quelli del collettivo di scienze politiche, era la frase che veniva detta, non so, quando arrivava in manifestazione, quelli sono quelli del collettivo di scienze politiche, perché eravamo un trappello che si presentava facendo i servizi d'ordine, garantendo, mi ricordo quando elessero Berlusconi, fu un 25 aprile molto teso, e il gruppo dei compagni di scienze politiche era compagni che garantiva la protezione del settore di corteo, quindi non eravamo gli ultimi arrivati. Sì.